Lord con Royal qui su Radio Stonata, canzone che abbiamo ripescato di qualche mese fa. Sono le 20 e 21 minuti. Siamo in collegamento col nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio e buonasera. Ciao Beppe, buona serata a tutti. Allora, Flavio, sabato, per chi lo segue sia sulla pagina sua personale, appunto Flavio Alagia, sia su nonsoloturisti.it, avete notato che c'erano dei post che riguardavano l'Expo. Quindi immagino, Flavio, che oggi ci parlerai di Expo. Assolutamente sì, finalmente dopo tanti ripensamenti, tante riflessioni, mi sono convinto di andare all'Expo. È un evento che io vedo con una, ammetto di vedere con una certa criticità per vari motivi, a partire dalle documentate ingerenze mafiose, a partire dalle bustarelle, mazzette di cui gli eventi, i grandi eventi in Italia si macchiano costantemente, a partire dalla dallo spropositato sfruttamento della manodopera giovanile, insomma per tanti motivi. Però al di là di questo, comunque è un evento importante, un evento a cui mi sono deciso di avvicinarmi anch'io e ho cercato di vederlo per quello che era, lasciando da parte quelle che erano le riflessioni sul periodo di creazione e di sviluppo che ha portato l'Expo, in vedere invece semplicemente che cos'è l'Expo oggi e che cosa offre. L'occasione che mi ha portato all'Expo in questi giorni, stiamo parlando di sabato 20 giugno, pochi giorni fa, è stato un invito da parte di Illy per discutere di turismo ecosostenibile e ecoturismo, quindi già questo insomma mi convinceva ad essere quantomeno in una situazione, quello che si suol dire, la meno peggio delle possibili relazioni con questo tipo di eventi. Alla fine, all'ultimo momento, mi sono accorto che eravamo nel padiglione della Coca-Cola a parlare di ecoturismo, ma vabbè, insomma, quelli sono gli sponsor, quelli sono i grandi marchi che hanno caratterizzato questo grande evento quest'anno, quindi era inutile farsene una ragione al momento in cui insomma di apparire. Abbiamo parlato di ecosostenibilità e viaggi, perché ovviamente era un argomento che a noi sta molto a cuore, che cerchiamo di diffondere attraverso i nostri interventi, i nostri reportage su Non Solo Turisti da quando siamo nati praticamente. Un argomento che ci è molto a cuore anche perché lo avvertiamo come fondamentale. L'Italia ovviamente è una di quelle nazioni che sono spinte tra le varie dinamiche, soprattutto anche dall'industria del turismo, è una di quelle poche industrie che non riusciranno mai a portarci via, perché se vogliono vedere i nostri patrimoni culturali e artistici e ai nostri paesaggi, la nostra varietà gastronomica e naturale, è qua che devono venire. Quindi questo è il motore, le risorse che comunque rimarranno sempre nostre. Mm-hmm. Abbiamo parlato in termini anche di ecoturismo, citando le associazioni, gli enti che sono tra i fautori di quelle che sono le definizioni di questo difficile termine in termini di concezione, perché si parla sempre di ecologia e sostenibilità quasi come di una categoria di azioni e di politiche che altri devono intraprendere affinché noi ne beneficiamo, mai con una serie di presupposti che noi invece vogliamo attuare nella nostra vita di tutti i giorni. Invece è importante anche responsabilizzare le persone, anche i singoli, di fronte a queste scelte. Di ben parlato in termini di viaggio, ovviamente, perché sono tante le esperienze ecosostenibili a disposizione oggigiorno anche in Italia ai viaggiatori, a partire dalle fattorie biologiche in cui si realizzano dei viaggi educativi di apprendimento, alle esperienze prettamente ambientali come può essere il trekking o il cicloturismo, fino anche alle criticità come ad esempio le situazioni in cui della sostenibilità ambientale si fa un marchio di cui fregiarsi, ma poi non viene attuata concretamente nella reale pratica industriale dell'azienda stessa. Quindi tutto sommato, insomma, nonostante il marchio aziendale di cui ci facevamo ombra, abbiamo anche detto delle cose sensate. Mi ha fatto piacere vedere una certa partecipazione nei confronti del pubblico. Ma già poi quello che ho visto, insomma, nell'Expo in generale, ve ne parlerò stasera. Flavio, ma io ti voglio aggiungere, no? Già se un marchio così importante ha invitato tipo a parlare di queste tematiche, vuol dire che pure loro si stanno orientando verso queste tematiche, anche se tu forse non condividi o quant'altro, però tu pensa che se l'hanno fatto un fondo comunque di pseudo impegno verso questa causa, ci sta. Guarda, volendo fare un discorso veramente con grande sforzo positivo e ottimista, io posso dire questo, che per fortuna l'ambientalismo e l'ecosostenibilità sono diventati argomenti così forti e così determinanti anche nella scelta del mercato e dei singoli clienti, che appunto il mercato stesso e quindi anche i grandi marchi se ne devono fare una ragione, devono applicarsi volenti o nolenti a rispondere a certe esigenze. Che poi le aziende, soprattutto i grandi marchi, siano realmente sensibili a queste cose, beh, su questo si potrebbe fare un ampio ragionamento in larga parte fondato naturalmente su supposizioni e teorie, però okay. Molto poco gratificante, però diciamo che perlomeno è una forza anche questa molto importante nelle scelte di mercato. Va bene, allora noi ci andiamo ad ascoltare ora un brano, Alvaro Soler, direttamente qui su Radio Stonata dalla nostra Stonata Chart, e poi ritorniamo con Flavio Lagio. Alvaro Soler con El Mismo Sol, non so se la pronuncia spagnola può andare, però proviamoci. Siamo ritornati in diretta, Radio Stonata 20:30, Suite Stonata, Flavio Laggia, non solo turisti.it. Abbiamo parlato con lui in apertura, è stato ospite all'Expo per parlare appunto di turismo ecosostenibile, di sostenibilità del viaggio, di rapporto tra natura e comunità, di esperienze e di quant'altro. E Flavio ci stava raccontando che dopo la canzone ci avrebbe illustrato altre cose che comunque ha visto e di cui ha parlato durante questo convegno all'Expo. Ma sì, ovviamente la mia ragione principale per essere lì in questo interessante incontro era anche un po' di potermi infilare all'Expo e dare un'occhiata in giro, per quanto critico e incerto, comunque anche molto curioso di vedere come si era stato realizzato nella pratica questo importantissimo avvenimento. Ecco, per illustrare il mio ragionamento adotterò la tecnica del sandwich, Beppe, no? Quindi mm-hmm. Una cosa positiva, una cosa negativa e poi finiamo con una cosa positiva. Allora, la cosa positiva è che effettivamente i padiglioni, le architetture realizzate per questo avvenimento sono davvero stupefacenti, cioè molte di queste sono davvero delle strutture che difficilmente qualcuno riuscirà a vedere così ammassate insieme in un unico ambiente, per quanto il territorio, l'area dell'Expo sia ovviamente molto vasta, ma la varietà e l'effetto sorpresa di tutti questi padiglioni mm-hmm. è davvero molto grande, quindi già per questo varrebbe la pena di andare a dare un'occhiata e di lasciarsi stupire da quello che hanno realizzato. Flavio, lo so, ti dico una stupidaggine. Posso fare il più simpatico, cioè il più bello da vivere proprio come esperienza? Secondo me è quello brasiliano. Quello che più si avvicina alla realtà dei temi trattati dell'Expo è quello svizzero. Basta. Allora, mi fa piacere che tu abbia dato questo input, perché io quello brasiliano purtroppo non l'ho visto. Cioè, dire anche che a un certo punto, soprattutto verso il tardo pomeriggio, nella giornata di sabato, le folle erano diventate talmente consistenti che addirittura il padiglione del Giappone metteva fuori un cartello per dire che ci volevano 2 ore per entrare, se ci si metteva in coda in quel momento. Sono stato però in quello svizzero ed non sono stato nelle torri. Quello svizzero si articola in vari ambienti, tra cui appunto queste famigerate torri che pare sono così gettonate da richiedere un biglietto d'ingresso, un biglietto che viene elargito gratuitamente, ma una specie di prenotazione per assicurarsi il posto in fila. Non ho avuto voglia o tempo di dedicarmi a questa pratica. Sono invece entrato nell'ambiente generico, dell'esposizione generica della Svizzera, dove viene illustrata la canalizzazione dell'acqua sul complesso del San Gottardo, nelle Alpi, come l'acqua piovana diventa fiumi e canali, che era molto abbastanza carino, ma a dire la verità abbastanza sterile anche come discorso. Sono andato nel padiglione delle città, mi ricordo ad esempio Zurigo, con tante esposizioni grafiche visive di quella che è l'arte e la cultura della città, carino anche questo, di nuovo sterile nei termini dell'Expo. Sono andato anche in questo simpatico padiglione che si chiama Nutrire la Mente, qui è stato semplicemente il padiglione espositivo della Nestlé. La Nestlé, che è una delle principali multinazionali, forse il più grosso gruppo industriale in termini nell'ambiente alimentare, è un'azienda che è spesso sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo perché viene accusata di crimini inenarrabili che vanno dallo spostare forzatamente intere popolazioni di aree rurali all'inquinamento delle falde acquifere, al controllo spropositato di beni di prima necessità come alimenti e acqua e bevande per farle in po' i prezzi che vogliono. È una di quelle aziende il cui marchio, soprattutto in Africa e in Asia dove si rimangono i marchi locali, ma il loro marchio rimane un po' in sottofondo, scritto piccolo piccolo ai margini dell'etichetta, della bottiglietta. Insomma, vedermela in un padiglione intitolato Nutrire la mente, in un expo che ha per slogan Nutriamo il pianeta, non mi è sembrato proprio un bel messaggio o un'attività interessante, soprattutto perché non toccava alcuno degli argomenti su cui la Nestlé è sempre chiamata a rispondere proprio per le sue discutibili politiche di marketing ed economiche. Mm-hmm. C'era anche, ma questo insomma si allarga a tanti altri padiglioni in maniera più o meno attenta, c'era ad esempio il concept bar della Nutella, che voglio dire, la Nutella piace anche a me, però farne un concept bar per nutrire il pianeta, forse il pianeta lo volevano nutrire con la pizza, visto che il giorno stesso, sabato, c'è stato l'annuncio del record mondiale della pizza più lunga del mondo, 1,6 km di pizza, mostrata, esibita lì all'Expo e poi divisa gratuitamente tra i partecipanti e tra i visitatori. Un bel evento, simpatico sicuramente, di nuovo affrontare nei termini morali socialmente rilevanti di intorno del pianeta, beh, è un'altra cosa. Mi è dispiaciuto ad esempio anche vedere molti padiglioni soprattutto dei paesi africani e asiatici diventare degli sterili negozi di souvenir senza alcun ragionamento, senza alcuna esposizione dietro, ma semplicemente delle vetrine per dei souvenir fondamentalmente dei vari paesi messi in vendita per i visitatori. Quello del Nepal è un discorso a parte, perché ovviamente era vuoto a causa della tragedia che ha scosso il paese, che ha richiamato in padre i vari lavoratori del Nepal. Era stato ultimato da altre aziende che stavano costruendo gli altri su appalto gli altri padiglioni, e adesso ospita semplicemente una raccolta fondi per il Nepal, che comunque insomma ci sta viste le circostanze. Mi viene in mente il padiglione del Belgio, che io ho apprezzato moltissimo, soprattutto per la birra in vendita nel bar. Ci sono ovviamente le patatine fritte e il cioccolato, e c'è l'unico ragionamento nei padiglioni principali che ho trovato interessante, che riguarda gli insetti proposti come possibile via alimentare per alimentare veramente tutto quanto il pianeta. Gli insetti sono delle fonti di proteine, di alimenti nutritivi molto importanti, ovviamente disprezzate dalle cucine tradizionali dei vari paesi, ma che in alcune teorie scientifiche e alimentari vengono riproposti per fare fronte alle necessità di fame nel mondo che attualmente affrontiamo. E nel padiglione del Belgio c'erano dei pannelli in cui si illustravano quali fossero gli insetti più commestibili e quali principi nutritivi avessero. Poi ovviamente adesso faccio una battuta, ma in un paese in cui il piatto principale è il piatto nazionale sono le patatine fritte, forse tutto questo sforzo non c'era stato, però insomma tanto di cappello almeno alle intenzioni del Belgio. E così tante altre situazioni, ripeto, le buone idee non mancavano, c'erano, però nel chiasso, nel fragore dei grandi marchi che puntavano semplicemente a mettersi in mostra con una un entroterra culturale, un entroterra morale e idealistico assolutamente nullo, forse era il caso almeno di dire, anziché chiamarlo Expo Universale Nutrire il Pianeta, dire: ragazzi, noi ci abbiamo i soldi, nella fiera che noi paghiamo con i nostri soldi ci facciamo fondamentalmente quello che ci pare, e se volete venire a vederlo effettivamente troverete un bello spettacolo, che così è, un bello spettacolo, ma in quanto Nutrire il Pianeta, insomma, da lì ce ne passa. Oh, una critica bella nutrita, Flavio, cioè. Posso aggiungere solo una cosa, non ti ho interrotto, però secondo me la Svizzera, ritorniamo sempre al padiglione svizzero, da buoni svizzeri quelli sono, cioè hanno voluto comunque non far perdere tempo ai visitatori prima di entrare appunto nel loro padiglione, quindi ti dicono: tu ti presenti qui a quest'ora, non fai la lunga fila interminabile, ma sai che a quest'ora c'è la tua ascensore prenotata, sali e vai su fino a visitare le torri. Io la vedo da sto punto di vista così, Flavio. Poi sì, ma infatti quello non mi interessa minimamente, a me. Io non ci sono andato per mancanza di tempo, però ci sta anche quello lì. D'altra parte le file c'erano, non è questo che mi disturba, ci mancherebbe altro. Ah, vabbè, in alcuni padiglioni sono file veramente interminabili di tantissime ore. Flavio, io ti ringrazio, come al solito. Hai raccontato benissimo l'esperienza Expo vista da non solo turisti, da un non solo turista, che è Flavio Alagia. Flavio, ci sentiamo giovedì per l'ultima puntata della stagione 2014-2015 della suite stonata e di non solo turisti.it. Perfetto, okay. Giovedì, grazie. Io ti lascio alla tua cena, ci scusiamo con i tuoi commensali e grazie Flavio ancora. Grazie a tutti, ciao Beppe, buona serata. Ciao.